Buonasera da Maurizio Melis. Non è affatto raro che situazioni di crisi facciano ritornare in auge buone vecchie abitudini abbandonate. È il caso del Refactory, che recupera e aggiorna una pratica vecchia e saggia: riparare le cose. Si potrebbe pensare che si tratti, insomma, di una moda passeggera destinata a sparire al primo alito di ripresa economica, ma molti analisti dei comportamenti sociali non lo pensano. Quello che invece potrebbe profilarsi all'orizzonte è un nuovo settore della green economy, niente meno. Di che cosa stiamo parlando più precisamente ce lo spiega Federico Pedrocchi, che a Milano, alla fiera Fa la cosa giusta, ha incontrato Luca Mortara, organizzatore di Restore, iniziativa per ora unica in Italia che punta a costituire un consorzio ampio di aziende che intendono fornire questo tipo di servizi. La parola a Federico Pedrocchi, sentite. Sono qua seduto su una Vespa che avrà 40 anni e di fianco a me c'è una bicicletta Bianchi che ne avrà altrettanti e mi trovo alla fiera Fa la cosa giusta. Ma di fianco a me c'è anche un umano, Luca Mortara. Buonasera Mortara. Buonasera a tutti. Lei è l'organizzatore di Restore, che è un pezzo piuttosto ampio di questa fiera, nel quale vediamo un nascente sistema per ricondizionare, beh, insomma, sembrerebbe una quantità di e varietà di prodotti praticamente infinita. Che cos'è Restore? Restore è la messa in pratica di una saggezza che sembra antica, ma sta diventando molto contemporanea, che è quella di smetterla di buttare via le cose che hanno ancora un grande valore d'uso e che siamo abituati a sprecare, come dire, da anni in cui si poteva cambiare la macchina ogni 2 anni, un cellulare ogni 3 mesi e un computer ogni anno. Primo, non ce lo possiamo più permettere; secondo, non se lo può più permettere questo pianeta; e terzo, abbiamo cominciato a renderci conto che questo enorme valore costruito, pagato con i nostri soldi, con la nostra fatica, sprecarlo era come, appunto, buttare via la fatica che abbiamo fatto per guadagnare i soldi con cui abbiamo comprato le cose. Questa saggezza è ormai un settore della green economy nuovissimo, che si chiama re-commerce, ha un parente che si chiama refactoring, e vuol dire che ci sono molte aziende che hanno cominciato a capire che se ho prodotto un trapano, e parlo della Bosch per fare un esempio, con altissime specifiche di qualità 20 anni fa, oggi è ancora un eccellente trapano. Certo. E che i miei operai, invece di costruire altri trapani che costano altra plastica, altra energia, altra fatica, possono più intelligentemente recuperare questi trapani, ricondizionarli e rimetterli sul mercato. Factory refurbished, dicono gli americani. Questo sta diventando un settore importante dell'economia americana, lo sarà anche in Europa molto presto. E qui io non sono solo vicino a vespe e biciclette, ma anche scarpe che comprate nuove valgono 600-700 euro e che qui, e dobbiamo parlare di prezzi, si possono avere assolutamente quasi nuove, insomma praticamente nuove, a 160. Ma vedo anche dei computer che hanno prezzi intorno ai 150 euro, 210 euro, e qui c'è ricondizionamento e anche inserimento di upgrade, no? Di miglioramento, di aggiornamento di queste macchine. Sì, questo forse dei personal computer è uno dei casi più clamorosi di rapporto tra qualità e prezzo. I personal computer di grandi aziende, sto parlando di prodotti come di HP, di Fujitsu, di Dell, cioè prodotti di alta ingegneria, di soli 3-4 anni fa sono computer con già di loro delle eccellenti specifiche. Arrivano, vengono dismessi dalle imprese, soprattutto nel centro e nord Europa, nell'ordine delle centinaia o migliaia di pezzi per volta. Questi computer con memorie upgradate, l'innesto di DVD di ultima generazione, tastiere nuove, schermi 17 pollici, pulizia, ricondizionamento, rimontaggio dei sistemi operativi e del software open source, arrivano appunto sul mercato a 200 euro e per una piccola impresa, per un'organizzazione non profit, per ragazzi che studiano, come computer di casa hanno 5, 6, 8 anni di vita, appunto a 210 diviso 8 anni quanto fa? 25 euro all'anno. Certo. Concludiamo allora, Restore diventerà un portale entro breve tempo e chiama una serie di artigiani che riescono a lavorare su questa reinvenzione del prodotto. Cosa fate? Anche una certa verifica di qualità su chi deve entrare nel vostro consorzio? Sì, senza paura di essere smentito, Restore, che è www.ri-store.it, sarà il portale dei prodotti ricondizionati in Italia. Noi vogliamo che attraverso questo portale abbiano accesso a tutti, ai migliori operatori italiani, vuol dire aziende che non solo lo fanno con serietà, ma che sono in grado di garantire la qualità dell'attività di ricondizionamento, per cui con una garanzia effettiva, come dire, che va dai 3 ai 6 mesi a secondo dei prodotti, e che in qualche modo certifica la qualità dell'impegno con cui questi prodotti sono rimessi a nuovo. Grazie Mortara. Grazie a voi. Bene, grazie a Federico Pedrocchi e a Luca Mortara. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.